Tutti noi abbiamo come obiettivo il raggiungimento della felicità. Esistono due principi che portano alla realizzazione di questo obiettivo e sono il principio di piacere e quello di realtà. Il principio di piacere è teso all'ottenimento della felicità. Nella tensione verso questo obiettivo, però, si scontra inevitabilmente con le regole sociali e le costrizioni morali che caratterizzano la realtà in cui viviamo. Questo ostacolo concreto frustra i nostri desideri. Noi, quindi, per non vedere fallire la nostra speranza di felicità, siamo costretti a scendere a patti con il mondo che ci circonda, aderendo a quello che è definito principio di realtà, che invece cerca la soddisfazione dei desideri in relazione a ciò che offre la realtà, in sintonia con le regole e i comportamenti accettati. In sostanza, il principio di realtà agisce in modo da adattare il soddisfacimento del desiderio alle situazioni che tendono a limitarlo. Quindi noi escogitiamo forme di appagamento diverse, ciascuno di noi preferisce la realtà che immagina in modo da soddisfare i propri desideri, in modo cioè che il principio di realtà che abbiamo stabilito ottenga la felicità che noi desideriamo.